Siamo in compagnia di Francesca Stasch per parlare della quarta edizione del volume 4 di Ugo, che atterra a Radio Rock il 23 marzo a partire dalle ore 21. Francesca, benvenuta. Grazie, grazie a te. Allora, vedo tanti nomi per questa serata, raccontaci un po'. Allora, la serata è una serata che cambia sempre, no? È modulare, ci sono sempre ospiti nuovi e ci sono anche delle presenze invece conosciute che si ripetono, ma è sempre un alternarsi perché noi ci teniamo molto a creare sinergie nuove, a giocare, appunto come abbiamo scritto, no? Nella nostra pagina Facebook, andare per tentativi, per plimersi, essere sempre meravigliate. Quindi questa volta ci sono tutta una serie di volti noti per chi viene a vedere Ugo, ma anche c'è cioè, per esempio Liliana Donna Fiorelli, che qualcuno conoscerà come Ponente, lei collabora con le Coliche. No, non so se te la ricordi, Ponente che faceva il featuring con i De Giornalai. No, mi sa di Adesso. no, mi sa di no. No, la devi vedere assolutamente su YouTube, sul web. Adesso invece ha fatto un rap della Meloni, anzi un trap, perché è una. Non è più un rap, noi siamo anziani, no? Noi anziani, i giovani invece fanno il trap. C'è lei, poi c'è Veronica Pinelli, che è una stand-up nuova, molto viva, molto interessante, e Luisa Merloni, che è un'attrice. Una Per me vecchia amica, straordinaria, sì. la conosciamo e la conosci anche tu, e che in questa sede farà un pezzo scritto da lei, perché adesso ha debuttato, non so se sai, con il suo nuovo spettacolo che è scritto da lei. E, però lei è soprattutto un'attrice bravissima e sicuramente tornerà anche con cose magari scritte da altri, ma a noi ci piace molto mischiarci e metterci sempre un po' in difficoltà, in una buona difficoltà, nel senso, no? Per fare cose sempre belle, sempre nuove. Senti Francesca, però facciamo un passo indietro, raccontiamo un po' la formula, Ugo. Ugo è un contenitore di pezzi brevi, tutti sotto gli 8 minuti. È un palco molto spartano, quello di Radio Rock, quindi si fonda molto sul testo e la performance. Quindi è un contenitore di pezzi senza fronzoli, eccoli, però poi all'interno di questi, diciamo, di questo perimetro si può proporre qualsiasi cosa. Abbiamo avuto Federica Tuzzi con le No Choice, che ce l'avremo anche tra Sì, l'altro, sì. che fa cose in rima, molto divertenti. E come abbiamo appunto stand up o personaggi o satira, cioè abbiamo Veronica Raimo che è chiaramente una scrittura molto tagliente, anche Nicole Balassone, che tutte e due, Veronica Raimo è una scrittrice insomma molto, Sì. molto conosciuta, e Nicole scrive su Linus ed è una delle persone più esileranti che ho mai conosciuto. E quindi diciamo l'idea è di avere cose all'interno di questo recinto degli 8 minuti e spartare il più diverse possibile, il più interessanti possibile. Senti Francesca, visto che siamo alla quarta, al volume 4, come si sta sviluppando? Come sta cambiando? Appuntamenti sono pochi per un gruppo che lavora insieme e una formula che si deve definire. Cioè che non è definita da una persona, ma è definita da un gruppo, da tante persone che poi diventa una specie di entità, no? Quindi sicuramente non, diciamo che ancora stiamo andando per dei tentativi. Poi abbiamo capito appunto che essenziali, che è molto importante essere. Insomma, che il fatto di essere in un palco come quello fa sì che il testo è molto importante, la performance è molto importante, bisogna essere molto ficcanti. Ovviamente non stiamo cercando di tenere la comicità, non so se questa è una domanda interessante. Stiamo cercando di far sì che di lavorare su una comicità che non sia troppo cabarettistica, troppo ma cercare di trovare altri modi di far ridere o comunque di commuovere o comunque di intrattenere sì. in 8 minuti in una maniera che sia incisiva e essiccante. Sì. Poi appunto effettivamente non si deve per forza ridere, l'importante è che in 8 minuti bisogna portare un fatto in scena. E questo abbiamo capito che è molto importante e sempre più difficile. Senti, non è solo un momento performativo perché è anche conviviale. Sì, abbiamo uno sponsor di Magnolia Eventi che ci offre un aperitivo, per cui il prezzo del biglietto include anche questo aperitivo, che è molto buono, e questo forse fa sì che anche il nostro pubblico sia sempre più ben disposto nei vostri confronti. Sicuramente parte del successo è dato anche dalla formula, li facciamo bene, li stordiamo e poi loro sono contenti. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il volume 4 di Ugo il 23 marzo alle ore 21 presso i locali di Radio Rock in via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio 4-6. Francesca Stash, io ti ringrazio, un abbraccio, ci si vede lì e poi lasciaci tutti i riferimenti web per saperne di più. Allora, per prenotarsi dovete mandare una mail a Clon. info@clon, che è TLON.it, e su Facebook c'è la pagina Ugo, ovviamente l'evento, e questo. E allora a presto, un abbraccio. Grazie mille, a presto. Ciao Francesca. Ciao.